Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Noi che cerchiamo sempre la poesia all'interno del calcio, in genere la troviamo o in Inghilterra oppure nel Sud America, perché il Sud America è un posto particolare nel quale il calcio è diverso per stile, per moduli, per mentalità, non solo per tecnica individuale, ma per cuore, sentimento, passione. Il calcio muove i popoli, i sentimenti, le coscienze, gli affetti. Peraltro più si va indietro nel tempo, più le differenze tra il Sud America e l'Europa sono evidenti. Oggi i giocatori, insomma, sono un po' più globalizzati, vanno come ridere dal Brasile alla Germania alla Cina, tutto diventa legge di mercato, e ne arrivano tanti di stranieri, arrivano anche dei giocatori, insomma, che forse non era neanche il caso di comprare, perché magari in Serie B italiana ce n'era uno più bravo del colombiano o dell'uruguagio di turno. Una volta invece solo i migliori sudamericani riuscivano a trasferirsi in Europa e mettevano in mostra la loro bravura. Bene, oggi racconteremo la storia di un grande giocatore argentino che è diventato un mito in Italia, che ancora oggi è considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Stiamo parlando di Omar Sivori. A noi però piace definire un punto di partenza, e il punto di partenza non è in Argentina, è in Italia, Genova, Cavi di Lavagna per la precisione, un piccolo paesino nel Golfo del Tiguglio. Giulio Sivori, nonno di Omar con i figli, decide di tentare la fortuna, parte e va in Argentina, dove nell'aprile del 35 a San Nicolás de los Arrojos, vicino a Buenos Aires, uno dei figli fa un figlio, e questo figlio si chiama Enrique Omar Sivori. Lui da ragazzo è innamorato del pallone, peraltro negli anni 40 il River Plate è una squadra leggendaria, viene chiamata la macchina, è una macchina perfetta che tra il 41 e il 47 vincerà 4 campionati, è una squadra fortissima nella quale peraltro debutta un altro tra i calciatori più grandi di tutti i tempi, Alfredo Di Stefano. Così nel 54 Omar Sivori esordisce nel campionato, ha solo 19 anni, si fa notare subito perché è veloce, agile, ha grande controllo di palla, è alto solo 1,63 m, eppure lo si riconosce subito perché ha una capigliatura molto folta che gli fa guadagnare subito il soprannome per cui verrà ricordato per tutta la vita, El Cabezón. È mancino, è un attaccante veloce, però ha anche un carattere molto particolare, entra senza paura sui palloni, anzi se c'è da tirare qualche calcio, qualche fallo di reazione, certo non si tira indietro. D'altra parte l'abbiamo detto più volte, insomma il calcio argentino è molto fisico, è molto duro, e c'è un agonismo pronunciatissimo, peraltro con i tifosi che riversano sulla squadra del cuore, è una serie di sensazioni che investe i giocatori come un uragano, insomma tutti lottano senza disdegnare lo scontro fisico. Nel 55 arriva il primo scudetto, vinto dopo aver sconfitto gli storici rivali del Boca Junior, poi l'anno dopo ancora scudetto, e Sivori ha conquistato subito il suo pubblico, peraltro ha segnato il quarto dei 4 gol con cui il River Plate sconfigge il Rosario Central all'ultima giornata, aggiudicandosi il titolo. Este es el estadio de River Plate en ocasión del partido contra Rosario Central. Numeroso público presta marco al encuentro que al final consagraría campeón al once millonario. Desde la salida River presiona sobre las líneas últimas de Central en demanda del triunfo que le confiera la corona, y la presión da sus frutos definitivos. Gol de River obtenido por Sivori, y el score es de 4-0 al terminar el encuentro que consagra campeón de 1956 a River Plate. La hinchada baja a la cancha para agasajar a sus héroes. E in campo c'è un trio che diventa leggenda, con altri due che verranno a giocare in Italia, Maschio e Angelillo. Tutti li chiamano gli angeli con la faccia sporca perché intanto sono, come dire, un po' scuri di pelle, e poi hanno questo agonismo che mettono in campo e terminano sempre la partita sporchi di terra e polvere. E sono anche il tridente della nazionale argentina che nel 57 vince il torneo sudamericano, che è, diciamo, l'anticipo forte segnale della Coppa America, battendo 3-0 i rivali storici del Brasile. Sivori rimane al River Plate fino al campionato 57-58 e poi arriva un'offerta dall'Italia. Il giovane Umberto Agnelli è appena diventato presidente della Juventus, vuole portare in Italia Sivori. Vengono offerti 10 milioni di peso, sono 160 milioni di lire, è un'offerta forte per quegli anni, il River Plate non può rifiutare, e con quella somma riescono a modernare lo stadio, costruendo peraltro una tribuna che verrà chiamata Tribuna Sivori. Omar, insomma, a 23 anni compie il viaggio inverso del nonno Giulio, torna in Italia. Il falco e il gabbiano. La Juventus non vince uno scudetto da 5 stagioni. Umberto Agnelli vuole riportare la squadra ai vertici. E trovano assieme a Sivori un gigante gallese, si chiama John Charles, 90 kg per 1,88 m. Allora 1,88 m erano veramente un'altezza fuori dal comune. E Sivori è piccolo, agile, insomma la coppia è complementare. E poi c'è Giampiero Boniperti, il capitano, e i tifosi l'avevano soprannominato la Marisa perché lo prendevano in giro, perché aveva sempre i capelli biondi perfettamente pettinati, però era uno che giocava e aveva una grande classe. Insomma, il trio dà i suoi frutti. Nel 47-48, peraltro, Boniperti aveva già vinto il titolo di capocannoniere. Adesso arretra leggermente perché arrivano due attaccanti diversi. E quindi Boniperti, Charles e Sivori sono destinati a fare faville. Sentite John Charles come descrive i differenti ruoli dei tre. Boniperti impostava dalla metà campo le nostre azioni. Omar, in fase avanzata, deliziava noi e il pubblico con impareggiabili serie di tocchi, di passaggi e di tiri diabolici. Quando la difesa marcava lui, doveva necessariamente concedermi una libertà, che mi consentiva di piazzare tiri in rete e colpi di testa. Quando i difensori invece si gettavano in massa su di me, la stessa libertà di azione veniva concessa a Sivori. E dare respiro a Omar significava incassare tanti gol. E così nasce quel trio magico che riporta la Juventus alla vittoria del 10° campionato, alla conquista della prima stella. E nei 4 anni che seguiranno la Juve vincerà 3 scudetti e 2 Coppa Italia. Ed era una bella Juve quella, insomma, simpatica, romantica, leale. E in campo Boniperti, Charles e Sivori fanno impazzire le difese di ogni squadra. Magari caratterialmente non vanno particolarmente d'accordo. Boniperti si scontra spesso con Sivori perché Sivori si impegna poco, è genio e sregolatezza, dice che non si sacrifica per la squadra, che pensa solo alla miglior giocata. Però c'è John Charles, che è il gigante buono, che fa da paciere. Una volta arriva a mollare una sberla in campo a Sivori per calmare le sue intemperanze nei confronti dell'arbitro. Pensavo in quel momento di essere stato espulso ingiustamente, volevo prendermi con l'arbitro e John è venuto proprio a calmarmi e mi ha dato un schiaffo in faccia. Eh sì, perché Sivori è un grande giocatore in campo, però quel carattere irrequieto che è tipico di molti sudamericani, di molti argentini, insomma nella sua carriera non mancano ammonizioni, espulsioni, giornate di squalifica, insomma a fine carriera i turni di squalifica saranno 33, è un record non invidiabile, diciamo, però la dice lunga sull'agonismo con cui Sivori affronta la partita. Per lui scendere in campo è come salire su sul ring, non c'è posto per chi non vuole lottare, anche se lotta a modo suo. Nel 61 Sivori vince l'ultimo scudetto indossando la maglia della Juve, però uno scudetto particolare macchiato da un episodio negativo. Contendere lo scudetto alla Juve c'era l'Inter di Elenio Herrera, quella che poi vincerà tutto negli anni a seguire. Nel 61, il 16 aprile, c'è un fatto abbastanza strano: scontro diretto Torino, invasione di campo da parte dei tifosi della Juve, e quindi ovviamente la partita che viene sospesa e la vittoria viene assegnata a tavolino all'Inter. Il 3 giugno, alla vigilia dell'ultima giornata, il Tribunale federale accetta il ricorso della Juve, che di colpo si trova due punti sopra l'Inter con lo scontro diretto da rigiocare. La Juve pareggia 1-1 con il Bari e l'Inter invece, probabilmente demotivata dopo l'ingiustizia subita, perde a Catania. E anzi, nascerà una frase clamoroso al Cibali, la frase di Sandro Ciotti, che racconta appunto il 2-0 con cui il Catania batte l'Inter. Quindi a questo punto, con i due punti restituiti dalla Juve, il campionato è assegnato, bisogna rigiocare Juve-Inter, e il presidente Moratti Angelo, il padre, schiera per protesta la squadra primavera, dove peraltro gioca un giovanissimo Sandro Mazzola, che segnerà l'unico gol su rigore in quella partita. C'era un mio compagno che doveva marcare Sivori, che non dormì per tutta la settimana. Sivori non aveva nessuna voglia di giocarla questa partita, vedeva sti smarmati e all'inizio stava lì in un angolo. Allora questo mio compagno, che era un mediano, uno molto muscolare, che sento ancora adesso ogni tanto, mi passava vicino, toscano era: e sto fermando Sivori al mio paese, mi dicono mamma mia non la tocca. A un certo punto il compagno ha cominciato a dire a Sivori: ma no, ma insomma, questo per fare un favore, sei pappine. Eh sì, Sivori segna 6 gol, stabilisce un record, anche se è un record, insomma, che lascia il tempo che trova, perché è fatto contro dei bambini, e la partita finisce 9-1 e viene ricordata anche per essere l'ultima partita giocata da Boniperti. Finisce l'epoca del trio magico. Sivori rimane alla Juve 4 stagioni, ma non riesce più a vincere il campionato, perché nel frattempo sono arrivati prima il Milan di Rocco e poi l'Inter di Herrera. La Juve è una squadra un po' allo sbando, indisciplinata, anche più estrosa. Arriva Zigoni, per esempio, di cui abbiamo parlato, a giocare nel campionato 65-66. C'è un nuovo allenatore ed è uno che non può andare d'accordo con Sivori. Si chiama Herrera, ma non è il mago Elenio, è Riberto Herrera, il teorico del movimento. Per Sivori le cose cambiano, e molto. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Omar Sivori, l'argentino che nella seconda metà degli anni 50, dopo avere trionfato a Buenos Aires col suo River Plate, approda in Italia, prima con la Juventus di Boniperti e poi da un'altra parte che vi sto per dire. E Sivori, con la vecchia signora, dà vita a quello che viene chiamato il trio magico, lui, Charles e Boniperti. Però si usa spesso nel calcio l'espressione termina un ciclo, e lì il ciclo termina. Arriva alla Juventus un nuovo allenatore, è un paraguaiano, Riberto Herrera si chiama, basa tutto sull'ordine, sulla disciplina, in un calcio in cui non ci sono prime donne. È uno di quelli che odiano le grandi star, come molti allenatori anche oggi. Insomma, ci sono casi di allenatori che mal sopportano il fatto di avere delle star in campo. Insomma, la rottura con Sivori è assolutamente inevitabile. La unica maniera di far divertire a quegli 60, 70, 80 mila spettatori che vanno a vedere le partite di calcio è se uno si diverte, perché se non si diverte uno difficilmente riesca a far divertire gli spettatori. Eh sì, Sivori è uno che diverte e si diverte, è uno che si porta a spasso uno, due, tre difensori, è uno che scarta il portiere, si ferma sulla linea di porta e aspetta che il difensore tenti il recupero disperato per scavalcarlo con un tocco beffardo. Insomma, è anche un po' irridente, è uno che fa il tunnel volutamente all'avversario, che spesso si innervosisce e magari gli fa fallo. Adesso, con l'arrivo di Heriberto Herrera, la situazione cambia. E a lui le manca una reeducazione totale, perché lui mai ha giocato con un compito chiaro per una squadra. Eh sì, ci sono questi allenatori che non sanno gestire i geni. E Heriberto Herrera, che peraltro non lascia tracce, insomma, nella storia del calcio italiano, praticamente si vince uno scudetto, ma poi va all'Inter e combina un disastro, viene sostituito dopo 4-5 partite. Insomma, è un minore che invece si prende la briga di criticare uno come Sivori. E Sivori se ne va, e va nel suo luogo naturale, secondo me, cioè a Napoli. Il Napoli che è appena ritornato in A dalla Serie B, è nato da un argentino, Bruno Pesaola. Nel Napoli quell'anno arriva un altro transfugo, uno che aveva fatto grandi cose nel Milan ma che anche lì riteneva non ci fosse più posto per lui, è José Altafini. In realtà sia Altafini che Sivori vengono poi considerati oriundi perché avevano i genitori originari dell'Italia. Questo ha permesso a Sivori nel 61 di vincere il Pallone d'Oro, perché allora il Pallone d'Oro lo vincevano solo i giocatori europei. Ha giocato anche delle partite nella nazionale italiana, dove hanno giocato anche Altafini maschio e Ancelillo. Quindi insomma i due quasi italiani, Altafini e Sivori, creano una coppia di attacco che fa sognare tutta la città di Napoli. Perché ho detto che Napoli era la destinazione naturale per Sivori? Perché a Napoli amano quelli che si divertono e fanno divertire, amano anche la grande giocata, insomma, fino all'amore irrefrenabile che tutta la città continua a riversare sul grande Diego Armando Maradona. Migliaia di tifosi all'arrivo. Questo affetto viene ben ripagato perché Altafini e Sivori nel 65-66 trasformano il Napoli e lo trascinano fino al terzo posto, che per una neopromossa è un grande risultato. Nel campionato successivo il Napoli arriva quarto e nel 67-68 il campionato vinto dal Milan vede il Napoli al secondo posto, l'impresa storica è sfiorata. È un periodo pieno di colpi d'ala positivi, giocate spettacolari, i tifosi napoletani portano in processione una statua raffigurante Sivori come se fosse San Gennaro. E poi il giocattolo si rompe perché per Sivori non ci sono solo gli infortuni che gli condizionano tutto il 67, ci sono altre variabili. Nel dicembre del 68 c'è Napoli-Juventus. Sivori sente molto la partita perché lui ha lasciato il cuore anche alla Juventus, però c'è quel Heriberto Herrera che è stato il suo carnefice, l'artefice del suo allontanamento. Herrera gli mette Favalli incollato come un francobollo, un difensore di quelli che non badano tanto al sodo. Lui comincia a menare, a innervosirlo, i due si fanno ammonire. A un certo punto Favalli viene toccato da Sivori alla caviglia, e come fanno i giocatori ormai spessissimo ancora oggi, anzi oggi più di allora, si getta a terra, accentua la caduta, l'arbitro espelle Sivori. Questa volta non c'è più Charles a prenderlo a schiaffi, insomma scoppia la rissa. Favalli è stato forse il più colpevole, ma è stato furbo in provocarmi, stupido io in reagire. Risultato: 6 giornate di squalifica. E così, pochi giorni dopo, a 33 anni, Sivori annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, torna in Argentina. È la fine del sogno italiano del Cabezón. Negli anni successivi Sivori è allenatore al Rosario Centrale, poi alle Estudiantes, però non sono grandi esperienze perché lui è uno che preferisce combattere in campo, vuole sentire lo scontro fisico, sembra uno che non è fatto per la panchina. Poi però nel 72 c'è la grande occasione, gli viene affidata la nazionale argentina, obiettivo qualificarsi per i mondiali di Germania del 74. Ci sono 2 partite per qualificarsi, gli avversari sono il Paraguay e la Bolivia, però la Bolivia gioca in uno stadio che si trova a 3600 metri di altitudine, se uno non è abituato lì i polmoni saltano per aria. Ci sono 2 partite ravvicinate e la sfida col Paraguay a livello del mare. Qui c'è il grande colpo d'ala di Sivori, la formazione tipo va a giocare la sfida col Paraguay, e poi invece c'è un altro gruppo di giocatori, una specie di nazionale B, che lui spedisce per 2 mesi a allenarsi in incognito in Bolivia per preparare la seconda partita di qualificazione. Peraltro da questi giocatori, per esempio, c'è Mario Kempes, che nel 78 sarà campione del mondo. Racconta quell'episodio incredibile nella sua autobiografia. Passammo 45 giorni in una bettola di La Paz, allenandoci e organizzando partitelle amichevoli con improvvisate formazioni locali, utilizzando gli incassi per i beni di prima necessità e i viveri che a turno qualcuno della squadra cucinava. In tre non ressero alle condizioni e tornarono a casa. Ebbene, un colpo d'ala notevole, perché questa nazionale, che viene chiamata la nazionale fantasma, compie la magia, vince 1-0 e si conquista la qualificazione ai mondiali. E lui non parteciperà, sì, a quei mondiali, verrà sostituito da Vladislao Kap. Per lui si prospetta un riposo meritato, lì nella sua tenuta a San Nicolas, lì dove tutto è iniziato. La sua tenuta lui la chiama la Juventus, è un tributo d'amore verso la squadra in cui ha ottenuto i più grandi successi. E lui era l'uomo di cui l'avvocato Agnelli aveva detto: è più di un fuoriclasse, è un vizio cui non si può rinunciare. Qui, nella sua tenuta di San Nicolas, nel 2005, Omar Sivori muore per un tumore al pancreas a 69 anni. Di lui rimane il ricordo di giochi di gambe, di tunnel agli avversari, di tanti gol segnati, di anche di qualche rissa, del suo temperamento, del suo estro. E insomma, è un campione che ha lasciato veramente una grande impronta nel calcio, e l'impronta è quella del suo magico piede sinistro. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci se conoscete una storia che volete che io vi racconti, magari via mail al falcoilgabbiano@radio24, oppure sul sito di Radio 24, oppure sul mio Facebook, sul mio Twitter, su quelli del Falco il Gabbiano, insomma, lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani.